Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e buona giornata. Oggi ci rivolgiamo a tutti i nostri ascoltatori che hanno un'idea imprenditoriale in testa da realizzare, ma non sanno dove e come cominciare. Chi decide di avviare una nuova iniziativa deve e ha la necessità di poter contare su un sostegno, soprattutto finanziario, che è necessario particolarmente nella fase iniziale. Eppure spesso le agevolazioni a disposizione non sono conosciute o sembrano complicate da raggiungere. Oggi, per tutti coloro interessati all'argomento, anche se forse la delicata situazione economica non permette ancora di avere grandi velleità imprenditoriali, con il Sole 24 Ore c'è la guida Mettersi in Proprio, che esamina in dettaglio e spiega in maniera molto pratica due maxi capitoli previsti da una legge molto importante, la legge 185 del 2000, gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. Che cosa sono, come funzionano, a chi si rivolgono, che iter bisogna seguire appunto per poter ottenere queste opportunità? Ma non c'è solo questo sulla guida oggi, perché sul territorio si può contare anche sugli incentivi regionali per la creazione di nuove imprese e anche sui finanziamenti agevolati messi a disposizione dalle banche per avviare nuove imprese. E allora, come si fa per esempio a sapere se la propria regione offre queste opportunità e soprattutto che tipo di dialogo magari bisogna instaurare con il direttore di banca per ottenere queste erogazioni? Insomma, tanti temi, come districarsi in tutte queste opportunità. Questa mattina ci aiuteranno, oltre alla guida, a Salva Danaio la collega Francesca Barbieri del Sole 24 Ore, che ha coordinato i lavori di Mettersi in Proprio, perché la guida si intitola così. Francesca, ciao, bentornata. Buona giornata a tutti. E poi abbiamo naturalmente un consulente espertissimo della materia, lo salutiamo, esperto del Sole 24 Ore, il dottor Amedeo Sacristano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Microfoni aperti. Cosa è successo nel suo ufficio, dottor Sacristano? È caduto? Le persone vanno e vengono in attesa di poter creare delle attività. Ah, molto bene. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che dà l'opportunità ai nostri amici che ci seguono da casa anche di chiamarci, di intervenire in diretta per chiederci dei suggerimenti stamattina sul tema che abbiamo deciso di affrontare. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Ci potete scrivere a salvadanaio@radio24.it, ma soprattutto, Francesca, ricordiamo anche che c'è l'alternativa importante, quella messa a disposizione dal sito del Sole 24 Ore. Sì, certo. Allora, è stata dedicata una sezione ad hoc al Mettersi in Proprio all'indirizzo www.ilsole24ore.com in proprio, oltre a trovare tutta una serie di contenuti extra rispetto a quelli pubblicati oggi sulla guida cartacea. C'è la possibilità di inviare quesiti fino alle 18. A questi quesiti risponderanno un pool di esperti del Sole 24 Ore e da domani i quesiti saranno pubblicati in parte sul quotidiano e poi saranno tutti pubblicati con le risposte ovviamente online sul sito nei prossimi giorni. Peraltro c'è sempre online anche il test per nuovi imprenditori, un'iniziativa interessante. Sì, esatto. È stato messo a punto questo test che consente appunto di mettersi alla prova, di misurare la propria attitudine a fare impresa, perché ovviamente senza spirito di iniziativa, senza, diciamo, creatività, voglia di fare impresa, Che ci sono tanti fattori che sono necessari, non necessariamente sono necessarie solamente le risorse finanziarie. Effettivamente bisogna anche capire se si ha l'idea vincente in testa. Dottor Sacristano, le hanno già girato presso i suoi uffici alcune delle domande che stanno arrivando da parte dei lettori? Ci sono dei quesiti interessanti? Alcuni quesiti sono già arrivati, riguardano chiaramente i requisiti tecnici per poter accedere a forme di beneficio e in particolare quando è possibile presentarsi come persone fisiche e quando invece è possibile presentarsi con delle idee imprenditoriali più strutturate, quindi sotto forma di società o altri tipi di aggregazione tra soggetti diversi. Quindi noi stiamo già provando a dare delle risposte e spero che continueranno ad arrivare. Infatti, sicuramente, anche perché, come dicevo prima, il momento nel mercato del lavoro è particolarmente delicato, per cui chissà mai che addirittura da un momento difficile non possano proprio trovare una spinta interessante le cosiddette start-up imprenditoriali. Allora, nella nostra scheda abbiamo riassunto le principali opportunità. Realizzare un sogno nel cassetto, svolgere un'attività senza essere alle dipendenze di un'impresa o di un ente,

sì, potrebbe essere un mondo a parte. In ogni caso, avere l'assistenza di Invitalia anche per la strutturazione delle operazioni in franchising è certamente una garanzia in più, anche perché, ripeto, c'è proprio un albo gestito da Invitalia, quindi i soggetti che si propongono con questa formula commerciale sono certamente già stati esaminati, vagliati attentamente da Invitalia. Io vorrei dire qualcosa sulla fattoria e sul fotovoltaico, perché sono certamente dei temi attualissimi, ma molto diversi. Per le fattorie è evidente che bisogna rivolgersi ad un tipo di incentivazione più in chiave locale, quindi verificare se ci sono delle iniziative gestite dalla regione o addirittura dalle province, da gruppi di azioni locali. Il fotovoltaico invece, lì il livello degli investimenti richiesti è certamente maggiore. Certo. A quel punto è evidente che non vanno bene nemmeno l'autoimprenditorialità o l'autoimpiego assolutamente di Sviluppo Italia, perché lì ci sono dei limiti dimensionali all'investimento. Ciò non significa che non ci siano delle agevolazioni, ne esistono tantissime, noi oggi l'abbiamo specificato sulla guida del Sole 24 Ore, sono degli argomenti che noi quotidianamente affrontiamo, trattiamo in chiave critica sul quotidiano, quindi è evidente che chi vuole approcciarsi a questo tema con delle piccole esigenze può trovare un riferimento in Italia. Sacristano, devo salutarla perché come sente sta partendo la sigla di chiusura e i tempi sono impietosi con noi. Grazie per essere stato con noi, così come ringrazio Francesca Barbieri, cioè, che ci voleva raccontare che vuole aprire una scuola di lingue. Anna da Livorno scrive al Sole 24 Ore, così come suggerisco questa direzione anche a Radames, che invece opera in un altro ambito simile a quello appena indicato: servizi linguistici, traduzioni, formazione e internazionalizzazione. Tante richieste di chiarimento vi risponderanno sul sito www.ilsole24ore.com in proprio. Grazie a tutti, alla prossima settimana, buon weekend. Salva Danaio.